Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In Argentina va in onda una parodia del Grande Fratello e i concorrenti sono imitatori dei politici che si sfideranno alle prossime elezioni. Evviva! La presidenta è stata confermata. Rimane nella casa un'altra settimana. Entusiasmo per i fan, delusione per gli avversari. L'ambientazione, ça va sans dire, è un reality. Si chiama Gran Cugnado, parodia del Grande Fratello, ed è prodotto e trasmesso in Argentina all'interno di Showmatch, ogni lunedì in seconda serata. Niente di nuovo, parrebbe. Invece sì, perché nel Gran Cugnado gli attori interpretano i politici di primo piano che si incontreranno alle prossime elezioni legislative di fine giugno. Queste sì, reali. Tra due settimane gli elettori daranno un segnale importante, di conferma o di sfiducia, alla coppia presidenziale Cristina Fernández de Kirchner, presidente, e Néstor Kirchner, ex presidente. La genialità del programma sta nella formula. I concorrenti sono imitatori di 19 personaggi politici e i dialoghi degli attori, parodie di quelli dei politici veri che preferiscono evitare gli scontri diretti in TV, pare abbiano un'influenza decisiva nel voto degli elettori. Il risultato è che tutto l'establishment politico non teme i programmi e le idee dell'avversario, bensì l'eliminazione dell'attore che interpreta il politico di turno. Il pericolo, infatti, è che l'eliminazione dal reality preluda una sconfitta vera dei personaggi che si presenteranno alle prossime elezioni. Non è un mistero che al Palazzo di Governo sia stato un sollievo l'eliminazione di Elisa Carrillo, combattiva esponente dell'opposizione. Pare chiaro, quindi, che il pubblico televisivo sia più condizionato dal copione del reality che dalle vere proposte dei politici. E come in un gioco di specchi, il pubblico, con il televoto, conferma ed elimina personaggi televisivi identificati con i politici veri. Non tutti, naturalmente, ma una buona parte dei 6 milioni di telespettatori che seguono il programma condiziona e sarà condizionato dal reality. Lo spettacolo è davvero esilarante, gli imitatori rendono molto verosimili i personaggi che rappresentano. Il guaio è che l'effetto finale esprime il primato della farsa sulla realtà. Le copie finiscono per essere più attendibili del prototipo. L'ideatore del programma, Marcelo Tinelli, uno showman molto popolare in Argentina, potrebbe diventare il precursore di una nuova stagione politico-mediatica che travalica paesi e lingue. Quella dei reality che divengono profezie della realtà. Il Gran Cugnado un primo risultato l'ha ottenuto. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, ha concesso un'intervista televisiva, la prima in 2 anni di governo. Una scelta obbligata per poter ridefinire la sua immagine ed esprimere le sue idee davanti al pubblico televisivo, altrimenti manipolato dall'esito del reality. Per molti argentini, infatti, la seguitissima trasmissione satirica è l'unica fonte di informazione sulla campagna elettorale. Sul banco degli imputati, l'intera classe politica, incapace di esprimere un messaggio etico. Andrés Raskovski, presidente dell'Associazione Psicoanalitica Argentina, accusa i dirigenti politici di figlicidio. L'idea base di questo mito dionisiaco è che vi sia una forza distruttrice che annienta la progenie. L'unico motore è la brama di potere che alimenta se stessa. Ecco, qui in Argentina pare che i politici, deliberatamente, evitino di combattere l'ignoranza che alligna all'interno della società. I personaggi, maschere grottesche, ripropongono con grande efficacia i caratteri, i tic, lo stile dei politici. Cristina è vanitosa, attentissima al look, è sempre in bilico tra la retorica in difesa dei deboli e l'attrazione fatale per l'alta moda e, pare, la lingerie. Dunque l'imitatore la fa inciampare più volte in un lapsus. Hasta la victoria secret, per donne sempre. Il riferimento è una nota marca di biancheria intima. Il marito, Néstor Kirchner, indossa la fascia presidenziale bianca-azzurra e pure ex presidente, dagli altri attori viene chiamato ex presidente, come a voler indulgere sul suo ruolo di presidente de facto, determinato a governare il paese da dietro le quinte matrimoniali. Un paio di settimane fa, il coup de théâtre. Irrompe in scena un altro ex presidente, Carlos Menem, stavolta quello vero, in carne e ossa, che dialoga con le caricature degli attuali candidati alle legislative, rendendo lo sketch surreale ma paradossalmente verosimile. Inutile dire che i guru del marketing politico sono divisi tra chi crede che il reality favorisca alcuni candidati, umanizzando i personaggi, magari disvelando una conversazione intima, come quella irresistibile tra i coniugi Kirchner, che rievocano i loro dialoghi ai tempi del fidanzamento, quando si confidavano «insieme potremo cambiare la storia di questo paese», e chi invece crede che un'eliminazione pregiudichi l'esito elettorale. A questo proposito si è scomodato il ministro della giustizia, Aníbal Fernández, che in un'intervista radiofonica ha parlato di un programma di eccessi e ha auspicato una regolamentazione. Di certo il successo del Gran Cugnado e il temibile effetto sul voto del 28 giugno, in cui Kirchner rischiano di perdere la maggioranza in Parlamento, è lo specchio di una campagna elettorale in cui la distanza tra i candidati e l'opinione pubblica è enorme. L'assenza di dibattito, secondo il politologo Fabian Perechodnik, direttore di Poliarchia, è palese, così come l'incapacità dei politici di presentarsi come interpreti di questioni pubbliche. Come palese è la loro incapacità di spiegare in modo chiaro problemi complessi, quasi sempre ridotti a uno schema dialogico del tipo «questo è ciò che interessa alla gente». Un'affermazione reiterata. Tutti fattori che trasformano la campagna elettorale in una caricatura di campagna elettorale. Coerentemente il dibattito si sposta dall'agorà al reality, che ovviamente non è la realtà, ma una sua simulazione. Forse Umberto Eco direbbe che è una falsità autentica. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Roberto Darin dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. A New York chiude anche l'ultimo dei Virgin Megastores. Non è la fine del CD, ma è comunque il tramonto di un'epoca. L'ultimo atto si è consumato. New York non ha più un solo megastore musicale. Fallite le catene americane, anche la Virgin di Sir Richard Branson ha chiuso il suo ultimo punto vendita nordamericano a Union Square. Nel giro di 2 anni negli Stati Uniti si è passati da 11 centri alla liquidazione della Virgin Entertainment Group Nord America. Il Sunset Strip di Los Angeles, il primo Virgin aperto sul suolo americano nel 1992 a Hollywood, ha chiuso l'anno scorso. A marzo le serrande sono calate su un altro Virgin Store, quello di Times Square a Manhattan, un simbolo. Agli appassionati della grande mela rimane solo qualche negozio di dischi indipendente. Chiudono i terminali di un'industria discografica in crisi ormai da tempo, che in quasi 10 anni ha visto dimezzati gli introiti, indebolita dalla pirateria online e mai rafforzata dalla vendita tramite web. Per Fabio Luzietti, DJ e responsabile della programmazione musicale di Radio Città Futura, testimone newyorkese dell'ultimo giorno di chiusura del Virgin Store, passare tra gli scaffali ha portato con sé una sensazione di grande tristezza. L'impressione è stata di vedere un simbolo della crisi globale. I due Virgin Store erano a New York il simbolo del negozio di dischi. La chiusura di Union Square è un monumento al crollo delle vendite dei CD. A Times Square, le serrate abbassate da marzo fanno un certo effetto. È l'unico negozio chiuso della zona, sono rimaste accese solo le insegne, sotto le quali la gente si dava appuntamento. I Virgin Store nascevano come luoghi multimediali. Potevi assistere a showcase e concerti, una formula a cui sono andati dietro tutti, da Fnac a Feltrinelli. Era stata tracciata una linea, ti vendo il disco e il concerto nello stesso negozio. Per Branson, però, investitore europeo in un mercato molto competitivo, è il fallimento generale di un progetto. O sono grossi guadagni o niente. E comunque anche le altre catene americane hanno chiuso perché hanno fatto i conti con i numeri della crisi. Adesso rimangono i piccoli negozi che hanno regole diverse. Il CD come supporto sta tirando le somme. La musica è digitale. I negozi oggi si sono trasferiti online. Un esempio è iTunes della Apple, un'applicazione per Mac nata come per riprodurre musica sul PC a cui la Apple ha collegato il megastore online. Persino su YouTube oggi c'è la possibilità di acquistare online le tracce legate ai video. La chiusura dei Virgin Store è anche il segno evidente di come abbiano reagito le case discografiche a questi cambiamenti. La Apple ha preceduto le case discografiche, vendendo i lettori MP3 e la musica online. I settori digitali delle case discografiche sono rimasti solo dei progetti nei cassetti, ora invece fanno i conti con la crisi. Solo Apple ha fatto una scelta vincente, unendo il lettore musicale con le canzoni, anche se da noi le vendite online di iTunes sono irrisorie. Infatti, tutto si muove con l'hardware. Prima l'iPod, ora l'iPhone. Poi c'è il download illegale. È una situazione da cui non si uscirà facilmente. Non hanno capito per tempo che stava cambiando. In Francia, per contrastare il download illegale audio e video, hanno varato a maggio una legge molto restrittiva, poi però bocciata dalla Corte Costituzionale. Il provvedimento francese ce lo dovremmo aspettare anche qui da noi, ma per come è strutturato e per i numeri che ci sono dietro, mi sembra inapplicabile, nel senso che serve più a mettere paura. Alla lettera dovrebbero prendere tutti. Inoltre, scaricare in completo anonimato non è così difficile. E allo stesso tempo, chiunque può agganciarsi alla mia rete come alla tua e scaricare illegalmente. Diventa complicato dimostrare il contrario. Che fine farà il CD? Verrà sostituito? La strategia ora è quella di vendere il CD in una versione particolare, magari con DVD allegato. È l'idea di un supporto dal valore aggiunto, come doveva essere fin dagli inizi del CD. Maggiore spazio rispetto al vinile, impossibile da rigare, mentre non è stato così, e a prezzo ridotto. E invece il prezzo non è mai sceso. La crisi ruota intorno al costo dei CD. Si vende una confezione particolare a chi ha voglia di avere l'oggetto, ma la massa no. Il digitale ha cambiato la fruizione della musica. Si vende il singolo, due canzoni, non il CD o l'album. La mossa Apple è stata puntare sulle vendite singole. Chi ha perso di più? Tutti hanno perso. Quello dei Coldplay è il disco più venduto dell'anno, ma come numero di copie è meno della metà del disco precedente. Gli incassi si fanno con i concerti dal vivo. I dischi d'oro si sono abbassati da 100.000 a 30.000 copie. Si spiegano così fenomeni estemporanei di band di nicchia che svettano in classifica. Hanno lo zoccolo duro che comprano il disco, poi basta. Vendono solo i Tiziano Ferro e Vasco Rossi. Tra pochi giorni ricorre l'anniversario del Walkman. La rivoluzione digitale nacque da lì? Il Walkman è stato un momento di rottura. Lo erano state le audiocassette con cui potevano fare le playlist personali. 30 anni dopo, i lettori MP3 sono la versione tecnologica del Walkman. Tutto in digitale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Ciavatta, L'ultimo dei Virgin. A New York chiude la stagione dei CD, dal Riformista del 17 giugno. Fino a che punto l'Occidente può reggere l'immigrazione del terzo mondo? Si chiede Giovanni Sartori dalle pagine del Corriere della Sera. Per chi non lo sapesse, il Pozzo di San Patrizio è un pozzo senza fondo e quindi un pozzo che non si riempie mai. Finora risultava che la Terra fosse un pianeta tondo e racchiuso in se stesso, ma per i popolazionisti e per chi si occupa di migrazione di massa è, si direbbe, un Pozzo di San Patrizio. Siamo più di 7 miliardi? Nessun problema. Il pozzo li ingurgita tutti. Sarebbe lo stesso se fossimo 77 miliardi. Provvederebbe sempre San Patrizio, un santo del VI secolo che la Chiesa dovrebbe rivalutare. Ma procediamo con ordine. Di recente Alberto Ronchey ricordava che un secolo fa gli africani erano 170 milioni, mentre oggi si ritiene che siano 930 milioni. La sola Nigeria potrebbe arrivare nel 2050 a 260 milioni di abitanti. E le Nazioni Unite stimano che paesi come l'Etiopia, il Congo e il Sudan, già stremati da ricorrenti carestie, rischiano di raddoppiare entro il 2050 la loro popolazione. E mentre la popolazione cresce a dismisura, le risorse alimentari del continente africano sono state malamente dilapidate dall'erosione del suolo e dalla desertificazione. Questi sono all'ingrosso i numeri della pressione dell'Africa, richiamata da Ronchey, e che è la pressione a noi più vicina e quindi più minacciosa. Una pressione che si ascrive alla categoria degli ecoprofughi e, correlativamente, degli ecorifugiati. Che fare? Come accoglierli? Finora si è parlato di diritto di asilo, ora si comincia a parlare di profughi ambientali. La prima categoria è impropria e difficile da accertare, mentre la seconda è davvero troppo larga, troppo onnicapiente. Presuppone che il mondo sia quel pozzo di San Patrizio che non è. Il diritto di asilo è stato, nei millenni, una protezione, un'immunità religiosa dalla vendetta del sangue, i parenti di un ucciso o simili, per chi si rifugiava in un luogo sacro. Questo asilo trova la sua massima espansione nell'Europa medievale, per poi venir meno. E il punto è che l'asilo non è mai stato riconosciuto come diritto di intere comunità e tantomeno per motivi politici. Pertanto il diritto di asilo, concepito come titolo di entrata in un paese per i rifugiati politici, è una recente invenzione. E andiamo ancora peggio con la nozione di vittime ecologiche. Questa categoria è davvero smisurata e sconfitta dai numeri. Gli ecoprofughi sono già centinaia di milioni e basterebbe che il dissesto del clima spostasse i monsoni per ridurre alla fame mezzo miliardo di indiani. Il rimedio certo non può essere di accogliere tutti e di un Occidente che si prende carico dei diritti di asilo e dei profughi ambientali. Per l'Africa un'idea sarebbe di rinverdirla, di renderla di nuovo fertile e vivibile. Un po' tardi, visto che l'agricoltura è già per metà perduta, che i laghi si prosciugano e che la desertificazione è irreversibile. Per carità, l'Africa va aiutata, ma tutto è inutile se e finché non apriremo gli occhi alla realtà, al fatto che l'Africa, e non soltanto l'Africa, muore di sovrappopolazione e che la crescita demografica, ovunque avvenga, va risolutamente affrontata e fermata. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Giovanni Sartori, Il Pozzo Senza Fondo, dal Corriere della Sera, del 15 giugno.